e Favelli ha fatto questo intervento con appunto più di 200 bottiglie che sono state disposte su questi scaffali che riprendono anche molto la conformazione della biblioteca stessa. Un altro consiglio che posso dare magari è di andare a vedere l'intervento molto site specific di Per Berkeley a San Barbaziano, una ex chiesa che è stata riaperta per l'occasione, che verrà poi rifunzionalizzata ad opera di AIX, ma al momento è ancora sede espositiva e quindi questa è l'ultima occasione per vedere quello spazio dopo l'intervento di restauro che l'ha tenuta chiusa per molti anni, e quindi già lo spazio di per sé merita tantissimo. Dov'è San Barbaziano? È in zona Barberia. Zona Barberia. Io invece volevo dire che se andate a vedere Favelli alla Fondazione Zeri, potete anche andare a vedere Sabrina Mezzacqui, i quaderni di Hannah Arendt al Centro delle Donne di Bologna, che è lì di fianco. Che è lì accanto, sì. Bravo, stai facendo un bravo. Non l'ho visto, però sono convinto che sarà assolutamente sicuramente da una non cosa mancare. Interessante. Quindi da Centro delle Donne, zona Carducci, vero? Cos'è? Santa, sì, più o meno. Santa Cristina, dietro Santa Cristina, quella zona lì. Poi ci passiamo a Barberia, che non è troppo lontano. Esattamente. E avevi altri consigli? Beh, addio, lascio la parola a loro. Ma possiamo fare anche un secondo round. Facciamo, questo è un primo round e poi Alison. Allora, mi piace come ha fatto Giulia di dire una cosa che ha già visto e una cosa che aspetta, quindi coppia un po' questo. No, entrambe le ho già viste. Ah, entrambe le ho già viste. Un po' da seconda. Cioè, allora, ho visto l'altra sera all'inaugurazione di Luisa Gardini alla Fondazione del molto Monte, bella, curata da Cecilia Canziani e Laria Gianni, che devo dire è una mostra bellissima di un artista novantenne che lavora molto ancora, che con disegno, con sculture, con la parola, cioè è molto multiplicible, diciamo, il suo lavoro. Molteplice. E mi è piaciuto tantissimo, cioè puoi passare tantissimo tempo dentro a guardare i dettagli, cioè è molto commovente come mostra. E poi... Dove? Fondazione del Monte, in via delle Donzelle. Centro Pallazzo. Altra mostra da non mancare, Carol Rama, sì. Difficilissimo per me, con la R. A Villa delle Rose. Sì, bellissima. Beh, allora mettiamo dentro multiples anche l'installazione di Zorio, che c'è lì a San Filippo Neri. Zorio e Grazia Todari. Ah, beh, allora però di fronte. Luca, esatto, Rossi con Rinasci dentro, che però è l'8 febbraio alle 21:45, per cui nessuno l'ha ancora vista. Ma no, in realtà è già lì, perché c'è una mostra fissa. Tu che hai dedicato volevamo dedicarti uno spaziettino. Non c'è stato lo spaziettino? No, ci sta, dai. Dai, facciamolo subito. Facciamo una cosa veloce. Chiara Pergola, parlaci un attimo di che cosa c'è di fronte all'Oratorio San Filippo Neri. Di fronte all'Oratorio San Filippo Neri intanto c'è il Museo Civico Medievale di Bologna, che è una delle glorie della città e che tutti hanno visitato da bambini i cittadini, perché fanno le tante gite scolastiche. Giulia è preparata su questo. E all'interno della sala 2 del Museo Civico Medievale, da ben 15 anni, cioè, forse potrebbe vantare una certa longevità, c'è uno spazio espositivo, un museo opera che si chiama Musée de l'Homme. E adesso ci spieghi anche il perché. Perché si scrive OHM, Homme è l'homme, diciamo, meditativo, ma anche richiama un po' il suono del Musée de l'Homme di Parigi, perché all'interno di queste sale ci sono degli oggetti etnografici un po' eterocliti, diciamo, che non si sono riusciti a confluire in altri... Sto già parlando troppo. No, ho parlato troppo forbito. Ah, cioè, pensavo che stessi parlando... Mamma mia, mi sono persa che... Andate tutti a cercare sul dizionario questa parola. E un po', diciamo così, sgangheratamente, poco omogenei tra loro, tra l'etnografico, la stranezza, poco... robe strane. Sono due stanze con robe strane e dentro c'è una roba ancora più strana, che è il Museo dell'Homme. Nel Museo dell'Homme, che è una... sarebbe una mia opera, però magari questo non so se si può dire. Certo che si può dire. Solamente politica, discorde, conflitto di interesse. Una cosa che ho inventato io. adesso dovrai restituire. Io ho mia moglie perché tu non puoi avere il tuo museo, perché non posso avere il la mia creatura amata e odiata, perché è 15 anni che sta lì e punta molto all'invisibilità, no? Infatti praticamente nessuno lo conosce. Ci sta riuscendo. Allora, siccome Luca Rossi dice sempre che bisogna non essere visibile, nascondere le opere, no, eccetera, poi in realtà occupa tutti i canali social, chiunque sa chi è Luca Rossi, affetto da visibilismo piccola polemica tenace, no, è una constatazione, no, in realtà non hai fatto polemica quando era qua ospite con noi, non sono venuta apposta per evitare che ci fosse questo conflitto, anche perché dovremmo fare puntate da 4 ore e non mi sembra il caso. No, infatti. E allora l'ho invitato a fare una cosa in questo museo praticamente invisibile, e lui ha una sua installazione che è già lì dal 15 di gennaio, ha aperto senza inaugurazione perché è invisibile, quindi non è perfetto. Che possiamo fare troppa pubblicità, no? Mm-hmm. E quindi c'è questa installazione con un video della serie Alone in Press Conference, che è questa serie di video che fa Luca Rossi con domande in assenza di pubblico. In realtà ci sarebbe da dire che le domande questa volta gliele ha fatte qualcuno, ma non so se Luca Rossi vuole che si dica. Gliele ha fatte ChatGPT. e poi ci sarà un... E quindi c'è un bel QR code in cui si può inquadrare e parte il video di Luca Rossi girato all'interno della sala stessa. E 10 palline di carta che contengono... Beh, insomma, se andate lì vedete cosa contengono. Se ce la racconti tutta, poi io non veniamo neanche. No, infatti. Scusa. Si va... Civico medievale, sala... Sala 2, e questo c'è già tutti i giorni negli orari di apertura del museo. E andate a vedere l'invisibile. Andiamo. E poi l'8 febbraio, se no Luca Rossi poi mi picchia. Esatto. C'è un happening alle 21.45, quindi un quarto d'ora prima della chiusura del museo. Appuntamento davanti al museo medievale, subito dopo aver visto Grazia Toderi e Gilberto Zorio, tutti lì di fronte, perché Luca Rossi ci porta non so dove a fare non so cosa, però. 21.45 lì. Molto bene. Mentre invece io volevo anche dire che a me è piaciuta moltissimo la mostra di Luca Vitone al Laboratorio degli Angeli. Così. Che c'è anche questa. Siccome appunto dura solo la settimana di Arte Fiera o poco dopo, tipo una settimana in più, magari è il caso di andarla a vedere, di sbrigarsi. Mentre invece nelle gallerie private c'è alla 8 c'è Per Berkley, Urs Luthi, Small Monuments and Archie Sculpture, e abbiamo scoperto oggi che Urs Luthi viene in Aula Magna, in Accademia, mercoledì alle 12.30 in Aula Magna, a parlare del suo lavoro, che è una cosa specialissima perché lui non parla in pubblico del suo lavoro. Infatti, quindi solo la cosa è a cura di Fabiola Naldi, che tuttora non ci poteva credere che gli avesse detto di sì e veniva a parlare del suo lavoro. È Usluti, come il museo dell'invisibile, Usluti, per chi non lo conoscesse, è un mito. Beh, capito? Certo, è un grandissimo, esatto, un grandissimo artista, soprattutto degli anni 70, che ha fatto cose veramente storiche. E 12.30 all'Accademia di Belle Arti mercoledì 5 alle 12.30, dopodomani. Segnate in agenda, esatto, segnate. C'erano degli altri suggerimenti? Volevo suggerire una cosa. Ho visto qualche preview di quest'artista, Eva Pappa Margariti, un'artista greca. Avrà una mostra, Like an Aggressive River, curata da Marta Papine e Ruth Peraha, alle Sere Madre di Giardini Margherita. È un video artist con una poetica molto particolare, cioè che lavora molto con la natura, con il liquido e con la parola. Per quello mi sono attaccata abbastanza, perché c'è un po' di poesia dentro questo lavoro e sono molto curiosa di vedere com'è sullo schermo, come sarà esposta, cioè perché sono cose molto immersivi, quindi... Serra Madre Giardini Margherita, che è un posto bellissimo. Naturalmente domani su www.coxospaziale.blogspot.com riassumeremo tutti i consigli che voi avete detto che dobbiamo fare. Ma veramente? Faremo la mappa per mia moglie. Allora, aspettate un attimo, perché mancano ancora intanto i consigli di Paolo Gavriotti e poi un mio consiglio che devo... Devi darlo. Articolare, esatto, che poi spiega. Però prima i consigli con parole semplici. Ci proviamo. Avete coperto un bel po' del programma. Io vado su magari qualcosa fuori dal main. Beh, giovedì sera il 6 alle 23 c'è il lancio del record launch di Luca Trevisani a Raum, Bologna, allo spazio di Xing. Via Caselvatica. Sì, via Caselvatica. Io do le informazioni stradali, esatto, perché esatto, ho bisogno di visualizzare dove devo andare. L'ultimo della serie farà una performance sonora. E suggerisco anche, visto che fanno parte del collettivo di gelateria, al Bar Rubik, questi due progetti che via sono via Marsala. Via Marsala, piccola galleria e piccola videogalleria, che un po' tutti i giorni avranno. Se uno vuole fare un aperitivo, fa un aperitivo con l'arte e ci saranno mostre in piccola galleria, che è un display lì al bar, e in videogalleria c'è un'antologica di Paolo Gioli, che è uno storico esponente, insomma, della fotografia, ricerca fotografica, anche di foro stenopeico e processi dell'immagine fotografica e della stampa, per cui in loop, credo, insomma, le sue opere video, per cui... Bellissimo. Super. Bellissimo. Già così abbiamo coperto direi il top. Io adesso volevo aggiungere, perché poi dopo se no i nostri ascoltatori dicono ma consigliate sempre le stesse cose, consigliate i vostri amici, consigliate quello che piace a voi e quello che fa, allora io quello volevo, che a voi non piace, esatto, io democraticamente volevo adottare questa metodologia. Ho davanti a me la mappona, che magari poi metteremo anche sul blog, dove voi potete vedere tanti pallini con tutti gli eventi ufficiali, non ufficiali, suddivisi per colore, special project eccetera. Allora adesso faccio scegliere a Giulia un colore: rosso, arancione, verde o blu? Blu. Allora io vado sul blu e siamo negli spazi delle gallerie. Cosa mi suggeriva qualcosa? E adesso vado e pesco a caso. Dovevo dire arancione dalla regia. Mi è venuto fuori casualmente Claire Fontaine, lotta, vedi? Alla galleria De Foscherari. E poi a questo punto, già che ci siamo, Claire Fontaine hanno anche da poco fatto questa installazione di una scritta neon luminosa in Piazza Verdi, e se andate da De Foscherari, che è in via per dire in via De Foscherari, però poi invece in realtà è in via Castiglione, esatto, e trovate la mostra a cura di Fabiola Naldi e poi vi fate un giro verso Piazza Verdi e vedete anche questa scritta luminosa. E poi volevo dire, naturalmente forse possono continuare e andare a vedere la mostra delle studentesse e studenti dell'Accademia di Belle Arti a Babò Open Show in via Belle Arti 54. E forse possono anche andare al Museo Ebraico di Bologna. Potrebbero, forse anche fare, potrebbero spingersi seguendo i colori arancioni, mi dicono forse. I colori arancioni, sì. Per vedere un certo Stefano W. Pasquini con una linea più buia. Esatto. se vuoi dirci, raccontare agli ascoltatori, a tua moglie, che ha bisogno che non sa dove stai esponendo. No, magari penso che lo sappia, no? Mi chiedeva delle altre partecipazioni, perché vabbè c'è questa mostra omaggio perché Pasquini ha al quattro Millennium Gallery, c'è questa mostra omaggio a Edoardo Di Mauro, che poverino ci ha abbandonato da poco e niente, con 70 artisti. E poi cos'altro fai? In quali altre Bottega mostre Prata sei? In via Caldaresi, non lo so, dovete fare non un cerco, non lo sai neanche dovete, tu, però questa dovete è fare peggio un cerco di Luca Pasquini Rossi, nella pagina di insomma, se uno va a cercare sul sito di Pasquini lo sa, ma lui non lo sa, ha dato delle opere a caso, le ha distribuite sorteggiando un po' così. Ah no, e poi sabato mattina c'è la porta di Garutti, non possiamo non menzionare la porta di Garutti, anche perché sennò infatti Mia da Schio su Piei, che è stata studentessa di Garutti, che salutiamo e baciamo, giustamente ci uccide, ciao, capito? Mia. Per ciao, cui, Mia. Ci manchi. Sabato 8 alle 10:30 di mattina in Aula Magna ci sono gli ex studenti di Alberto Garutti, che è stato docente di pittura anche all'Accademia di Belle Arti di Bologna, che appunto raccontano un po' e ricordano questo super artista scomparso da poco. Ecco, allora io però adesso, siccome quando ho pescato a caso è venuto fuori sempre un evento dei parenti amici, volevo fare cambiamo colore. Adesso Paolo, scelgo dai. Paolo, clicca su a caso sul verde scuro, quelli verdi scuri che sono gli altri spazi. Oh, finalmente questo, Marcello Vandelli, umano più umano. Okay. E questo è una mostra personale opening proprio sabato 8 febbraio alle ore 17:30, sto prendendo tempo perché non capisco dove il bello della diretta. Esatto, collegamenti Marcello Vandelli, Nuovo Immaginario, è un evento gratuito ed è 212 spazi espositivi in via Galliera 2/B a Bologna. La mostra personale Umano più umano di Marcello Vandelli, che è stata sorteggiata in modo assolutamente democratico e casuale, propone una selezione di 35 opere realizzate su tavole di legno con tecnica mista. L'opening si terrà sabato 8 febbraio 2025 con la presenza del professor Alberto D'Atanasio, docente di storia dell'arte e semiologia dei linguaggi non verbali, già incaricato per l'estetica linguaggi visivi, vabbè, un sacco di altri titoli universitari. Vandelli, artista modenese, classe 1958. Io sono di Modena, quindi chissà, sarà stato tutto un magna magna, tutto come magna al solito, capito? No, e invece Alison, cosa facciamo? Non menzioniamo la banca della calce dove c'è una mostra di Giuseppe De Mattia chiamata Tariffa Estiva? Dov'è? Sto cercando di cercare. Trattato semplice, inaugura semplice, stasera, tra l'altro. Allora spiegatelo. Ah, cavoli, inaugura stasera alle 18. Perché no? Inaugurava. Noi non ci facciamo questi problemi, vero Stefano? No, assolutamente. Noi siamo già tornati indietro. Comunque, tempo giovedì varie volte, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17, appunto, orari di apertura con Art City, da giovedì a sabato, possiamo appunto vedere questa personale. Visibile anche dalle vetrine dello showroom, che riprende un elemento ricorrente del suo lavoro, il cartello dei prezzi di mercato, semplice e comune, come strumento di comunicazione immediata. Questa è alla Banca della Calce in via Francesco Albani 1/3, che sarebbe Bologna. E invece la bancona di Bologna, Palazzo dei Toschi. Ah, ecco, no, fra l'altro volevo menzionare anche quella, perché è super un audio. Preparatissima, Giulia. Sì. Giulia. Ecco, parlacene tu, Giulia, perché io penso alla pagina di Banca di No, l'inaugurazione è domani sera. Devo andare a supportarti. No, l'inaugurazione è domani sera, appunto, e Peggy Frank è un'artista olandese, appunto, che è stata invitata negli spazi di Palazzo dei Toschi per Banca di Bologna a cura di Davide Ferri. E l'ho vista stamattina ed è una gran bella mostra. È una gran bella mostra. Cioè, poi detto questo, Palazzo dei Toschi difficilmente ci sono state brutte mostre. Ma a Bologna non ci sono brutte mostre. È una mostra che si articola tra pittura, scultura, fotografia, quindi è veramente molto molto ampia, insomma, da visitare. Se volete io vi scrollo e voi mi fermate, me ne dite un'altra, perché io assolutamente qua sono persa, non io so degli altri amici se volete. No, Fabrizio Prevedello Mega 2, che è il nuovo spazio dello storico locale 2, che come gelateria è uno degli spazi Salutiamo indipendenti Fabrizio Prevedello. Da sempre, e dacci una via Mascarella. Non so il numero, però è uno spazio visibile. Poi sera. Naturalmente anche al Giardino del Guasto. Anche è vero, esatto, è doppio. Mascarella più Guasto. Sì. E anche Alchemilla, naturalmente. Anche Alchemilla. Cosa c'è ad Alchemilla? Cosa c'è ad Alchemilla? Come si chiama? Oddio, non lo trovo. Un artista olandese, per quanto mi ricordo. Beh, anche voi che ascoltate Jason fate Hendrick qualcosa, comunque. Cioè. Hansma, In Our Real Life, a cura di Gabriele Tosi, che salutiamo. E no, più che altro salutiamo dobbiamo anche voi, perché tutti sono le 21, ci cioè siamo, io non ho parole. Dove sono i nostri amici di Panta 80, che di solito ci spronano a finire però la sapevano trasmissione. Che la data di Art City, cioè un po' di margine ci vuole. In effetti è un casino qua la faccenda. Comunque fatevi la vostra mappa, andate se, su se vi sentite Cultura un po' Bologna. Frustrati perché avete capito che non ce la farete mai a vedere tutto, sappiate che siete in una condizione normale. Esatto. Fieristica, sì, no, cioè ci saranno quante mostre ci saranno in totale, secondo 150, me 150, ma sì, come minimo tipo 150, una quantità infatti spaventosa. Ogni anno raddoppiano, è una crescita esponenziale. Bologna non so se ce la farà a reggere questa situazione, però, però lo chiederemo a Matteo Lepore quando verrà a Coxo Spaziale, naturalmente. Io l'ho già intervistato una volta. Ah, sì? Ah, perfetto, mi trovo a mio agio. Molto bene, io ci sto arrivando e lo avremo qui a brevissimo. Detto questo, ringraziamo tutti i nostri ospiti ospiti. Elenchi con nomi e cognomi. Andiamo a ricordare Giulia Giacomelli, Paolo Gabriotti, Alison Grimaldi Donahue e poi basta, perché tu io ero Chiara Pergola, io ero Stefano W. Pasquini e io ero Giulia Quadrelli. E come al solito ci salutiamo con le parole del nostro fantastico direttore. che dice oddio, no, dice, non dice niente, non dice niente, non dice niente. Vabbè. No, dice, ce l'ha così lasciata passare. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Coming through each and every pore.